i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Cara Deborah, bentornata. Sì. Questo studio non è un albergo. Sono dove mica tua figlia. Vai, che vieni, non si sa dove sei, sei. Un giorno sei a Rimini, un giorno sei in ferie. Insomma, guarda. Sempre lavorando, comunque. Voglio dirti che non sono andata mai in vacanza. No, va bene. Questo e ci sono fior di testimonianze e certificazioni che lo documentano. Questo ti fa onore. Però sei tornata giusta per parlarci di investire in formati. Certo, perché qua i mercati bisogna sempre osservarli religiosamente. E quotidianamente e scrupolosamente, e noi li ascoltiamo, ascoltateli anche voi da noi questa mattina. Appunto, non è giovedì, perché di solito forse qualcuno potrebbe dire: ma come? Di solito investire in formati se ne parla il giovedì. Questa volta invece vogliamo. Ma sì, perché si saranno accorti gli amici che eravamo ieri a Rimini per Ecomondo, per cui abbiamo trasferito ad oggi, posposto ad oggi la nostra rubrica. Postergato anche se vuoi, procrastinato, prorogato. Insomma, ne parliamo oggi. Esatto. E vorrevo anche dirti una cosa. Come già ti dicevo, mentre tu eri a Rimini a gozzovigliare e noi qui invece in una grigia giornata milanese, abbiamo qualche biglietto, oramai sempre meno, per Gamma Donna. Allora, Gamma Donna, come sai, perché già te lo raccontavo essendo ieri, essendo una donna di gamma, io mi promuovo da sola. Ma io direi anche ce di alta anche una gamma. In studio oggi, è di altissima gamma, poi la presentiamo. Tra pochissimo le diamo il benvenuto come si confà. Però devi sapere che Gamma Donna si terrà qui il 16 di novembre prossimo, è il nono Gamma Forum nazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile. Allora, se volete, è anche un'occasione per visitare la sede nostra del Sole 24 Ore, qui in via Monte Rosa 91 a Milano. Abbiamo ancora qualche biglietto, mandateci le vostre idee di imprenditoria, anche richieste magari, perché no, normative, miglioramenti che vorreste, ce li potete inviare al nostro numero abituale 349 238 6666, con SMS o WhatsApp. Le migliori, a nostro insindacabile giudizio, riceveranno l'ingresso per Gamma Donna il 16 novembre. Molto bene. Allora, invece, per quello che riguarda i temi di oggi, caro Mauro, è iniziato novembre, praticamente ormai siamo quasi a metà, perché qua il tempo vola quando ci si diverte in maniera particolare, e a breve cominceremo a fare quello che facciamo ogni anno in questo periodo, cioè a stilare bilanci. Come sono andati i mercati in questo 2017? Da qui alle prossime settimane faremo il riepilogo dei fatti che hanno segnato il quadro economico, per capire come hanno influenzato questi fatti, questi eventi, il settore azionario e quello obbligazionario, e per capire in che modo si sono di conseguenza mossi gli investimenti degli italiani, anche per provare a fare qualche previsione. Tra l'altro, è già un anno che è stato eletto Donald Trump e si stanno facendo le pulci a tutti coloro che avevano previsto uno scenario assolutamente fosco in relazione a questa decisione appunto dell'elettorato americano. Invece le borse corrono, proprio Wall Street come su tutte. Come sempre, qualche previsione degli economisti rivaluta gli astrologi. Esatto, infatti. Poi gli altri temi, le banche centrali che cominciano a tirare i remi in barca, anche se con molta prudenza, segno di un quadro economico generale che è favorevole, l'economia ha ripreso a marciare, anche se con le consuete modalità macchia di leopardo. Sullo sfondo rimangono poi fattori di incertezza, ce ne sono tanti, l'ultimo è il petrolio. Ah, già. Esatto, sai che c'è. Com'è che l'hanno chiamata la purga saudita in corso in questi giorni? Che però sta dando delle preoccupazioni, oltre che naturalmente a quel territorio e anche ai territori vicini, come abbiamo appreso dai giornali proprio in questi giorni, proprio sull'andamento della materia prima, una delle materie prime più importanti. State attenti al petrolio, io ve lo dico, perché oggi, pur non essendo giovedì ma è venerdì, è giorno di domandone. Benissimo. State attenti al petrolio. Andamento del prezzo del petrolio che si ripercuote anche sull'andamento dell'economia del Venezuela, che è al centro di un'altra crisi piuttosto importante. Noi già tremiamo al pensiero che se questo paese farà, come preannunciato, la ristrutturazione del debito, ecco che arriveremo a riparlare di nuovo di qualche italiano che è incappato in questo cattivo investimento. Magari no, noi ce lo auspichiamo, però insomma l'Argentina ci insegna qualcosa, ma anche in tempi più recenti la Grecia. Quindi